vorrei saguare per te, e anche se non è anche, ti volevo solo dire che era qui in fondo a me. Oh, è per te che lo sai di chi sto parlando, te, che ti piacerà un minuto e poi te lo scorderò, perché sei viva, viva così come sei. Quanta vita mi hai passato, non la chiedi indietro mai. O sei viva, viva per quella che sei, sempre pronta, sempre ingorda, sempre solo come vuoi. Questa qua è per te, che non ti puoi spegnere, non hai mai avuto tempo di troppo vivere. O è per te, questa qua, per la tua curiosità, ti strofini contro il mondo, tanto il mondo non ti avrà, perché sei viva, viva così come sei. Quanta vita hai contagiato, quanta vita brucerai. O sei viva, viva per quella che sei. Sempre scegliere, io invece non ho scelto, te la devo.